E allora torniamo in diretta su questa versione con le trombe di Guerrilla Radio dei Brass Against the Machine, e come promesso ci colleghiamo con Via Mattei, dove dalle 8 di questa mattina davanti al Lab regionale è cominciato un presidio di lavoratori e lavoratrici dell'accoglienza e dei sindacati, appunto per fermare questo trasferimento coatto dei migranti disposto dalla prefettura. Noi siamo al telefono con Cecilia di ADL Cobas, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Allora Cecilia, come sta andando innanzitutto il presidio? Allora, il presidio sta continuando a crescere nonostante la chiusura della strada proprio in questi minuti da parte dei vigili, per cui fondamentalmente siamo un attimo isolati, però anche in questo momento vedo arrivare ancora decine di persone a piedi, quindi continua a ingrossarsi il presidio. Siamo qua fermi e non vogliamo assolutamente che questi pullman partano. In più, nel mentre, abbiamo creato un angolo legale per dare supporto anche a chi degli ospiti che sono all'interno del Mattei escono e vogliono avere le delucidazioni su tutto quanto quello che sta capitando. Ecco, inizialmente, come dire, questo trasferimento così un po' all'improvviso comunicato dalla prefettura doveva avvenire entro venerdì, entro il 14. Come, vi siete fatti un'idea del perché di questa accelerata? Ah beh, trovandosi davanti una Bologna degna e accogliente che ha continuato a prendere e creare attenzione su questo tema, crediamo che questo sia un chiaro segnale politico da parte del Ministero dell'Interno, perché la prefettura sta eseguendo ordine del Ministero dell'Interno. È un attacco a quell'accoglienza che a Bologna si è creata e che abbiamo sempre portato avanti con anche un po' di orgoglio. Insomma, Bologna abbiamo sempre detto una città accogliente, mentre adesso Salvini vuole prendere e attaccarci chiudendo questo posto in meno di 3 giorni. Sì, è un po' quello che abbiamo già visto a Riace, che sta succedendo, esatto, anche a Bologna, certo. Oltretutto il comune questa mattina è stato interpellato dicendo che doveva prendersi carico di tutte queste persone che stanno per essere deportate a Caltanissetta, ma alla risposta alla richiesta di aprire il piano freddo è stato risposto: non ci sono soldi. Crediamo che dopo un'approvazione di bilancio dove ci sono stati un bel po' di soldini in positivo, questa non possa essere la risposta. Certo. Ecco, ieri avete fatto un presidio appunto davanti alla prefettura, vi hanno anche ricevuto insomma una delegazione di voi, però non c'è stato modo di aprire un dialogo e come dire creare un tavolo come voi chiedavate. Assolutamente no, la prefettura è stata molto chiusa anche nel secondo incontro che siamo riusciti a fare ieri, che era in comune insieme all'assessore Lombardo. Abbiamo richiesto anche da parte loro di convocare questo tavolo, ma evidentemente vogliono fare il pugno duro. Sì, infatti ho letto anche una dichiarazione dell'assessore Barrigazzi abbastanza, come dire, infastidito da questa mossa della prefettura. L'essere infastidito deve anche essere un pochino più, giocarsela un po' di più, cioè più che giocarsela, essere qua presente e richiedere più tempo. Ci hanno detto dal comune anche che il problema è il tempo, in 4 ore non si riescono ad aprire i piani freddo. Bene, che vengano qua, che contattino la prefettura e che dicano che ci vuole più tempo. Non è possibile però in 4 ore, in 12 ore ci sono lavoratori dentro che sono lì da praticamente 12 ore, sono andati a casa per 4 ore per dormire, per tentare di fare in modo che questa cosa non avvenga nel peggiore dei modi. Adesso il comune deve prendere una posizione forte. Certo, quindi questo è l'appello appunto che rivolgete anche al comune, insomma, di esatto. Se non fare la voce grossa, almeno essere presente, ecco, esatto. Almeno quello. Fare la voce grossa sarebbe la cosa migliore. Certo, certo, ecco, un'ultima cosa, quindi insomma l'obiettivo vostro del presidio è quello di non far partire i pullman attesi per oggi. Esatto, non vogliamo far partire i pullman e stiamo tentando di dare tutto il sostegno comunque anche a chi non vuole partire. Grazie mille Cecilia e insomma buon proseguimento. Grazie, ciao a tutte e tutti.